La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Buongiorno, un augurio a tutti. Questa è la puntata natalizia della Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi. È una puntata speciale, quella che ripercorre tutti i film, o quasi tutti i film, divisi per generi, che potrete vedere in questo periodo, appunto, delle feste natalizie in sala. La Rosa Purpurea, come sempre, vi aggiorna sull'attualità cinematografica, ma fra le uscite del 18 dicembre ormai e quelle del 1 gennaio, che saranno piuttosto numerose quest'anno, molti film hanno scelto di saltare Natale ma di prendersi in pieno il doppio ponte Capodanno Epifania. Ebbene, in questi giorni di nuovi film non ce n'è, e quindi abbiamo deciso di mettere insieme tutto quello che invece c'è nelle sale cinematografiche italiane e, insieme a Boris Sollazzo, di darvi un po' una guida proprio per i film di queste ore. Siamo nei giorni in cui al cinema ci si va di più in tutto l'anno, e allora saluto subito Boris Sollazzo in collegamento con noi e lo invito a stare con noi per quest'ora. Ciao Boris. Buongiorno e buone feste, Franco. Ciao Boris. Allora, abbiamo detto, è una puntata particolare, speciale, animazione, il Natale di qualità l'abbiamo chiamato, comunque con film che vogliono avere qualcosa di più del mero fatto di, che va sempre bene chiaramente, di portare gente al cinema, Natale d'azione, perché qualcosina anche sul piano dell'azione c'è, e il cinepanettone e i suoi derivati, diciamo così, perché ormai anche questo genere si è un po' modificato, ma insomma commedie natalizie ce ne sono molte. Cominciamo con il cinema d'animazione, che è sempre stato il cinema di Natale. Il film di Natale era il film animato, una volta quello della Disney, ormai da qualche anno ce n'è tutte le settimane, ma certo che comunque proposte d'animazione sono importanti anche a Natale. Forse quest'anno un po' meno del solito, nel senso che la Disney ha puntato su un film come Big Hero 6, che è un film molto particolare, è il film più manga della Disney, è stato detto. Certo non è Frozen, non è il film che attira le masse, è un film un po' più ricercato anche nel target di pubblico che vuole raggiungere. Non a caso è partito in classifica al terzo posto, che non è una cosa normale per un film Disney. Ricordiamo, la classifica prima di questa settimana vedeva Lo Hobbit partito a 4,5 milioni di incasso nel primo weekend di sfruttamento, e poi al secondo posto Aldo, Giovanni e Giacomo con Il ricco, il povero e il maggiordomo, che erano già fuori tra l'altro da una settimana. Terzo, qualcuno dice solo terzo, Big Hero 6 della Disney. Poi c'è Paddington, l'orso, che è molto molto inglese, una proposta molto particolare. Non è un personaggio Paddington così diffuso in Italia, però è un personaggio molto simpatico. C'è l'animazione raffinata d'autore di Un gatto a Parigi, ci sono i pinguini di Madagascar, che però sono usciti a novembre, hanno preso tutti d'anticipo e hanno già portato a casa incassi piuttosto significativi, che si aggirano intorno ai 7,5 milioni globali. Insomma, Boris, qui ti chiamo in causa, un Natale anche nell'animazione un po' dispari rispetto a quello che è successo negli ultimi anni. Sicuramente sì, perché si cerca anche forse un pubblico che non sia costantemente e prevalentemente natalizio. Quello che di cui si erano accorti forse i cinepanettoni, in particolare Aurelio De Laurentiis, che aveva cancellato vacanze per mettere colpi di fortuna, colpi di fulmine, secondo me è stato capito adesso anche da chi fa animazione, o meglio chi distribuisce animazione, perché chi la fa ovviamente la fa tutto l'anno, e chi distribuisce animazione adesso a dicembre non ha più il bisogno di portare storie innevate sostanzialmente, o storie ghiacciate, a meno che non ci sia un Frozen, che chiaramente è un blockbuster di quelli naturali, un film destinato a diventare un grande classico. E quindi arriva il Big Hero 6 della situazione, che è un film che davvero avremmo potuto vedere in qualsiasi altra parte dell'anno, l'avremmo visto con gusto. Mi viene il sospetto che forse sarebbe andato anche leggermente meglio, perché pur non arrivando alle vette dei film Disney, è un'opera di genere molto gustosa, molto interessante, molto divertente, anche con momenti molto originali. Forse più vicino a un certo modo di fare animazione festiva è sicuramente Paddington, anche se comunque sia ha quella grazia e quel voglia di raccontare una storia diversa, anche dolce, anche ingenua in alcuni momenti, che è nell'ambito della favola, non necessariamente natalizia, anche se qui la neve c'è e non la possiamo e non lo possiamo negare. Insomma, è un'animazione che, come dicevi tu, non sembra più avere il guinzaglio di un genere cronologico, ma che cerca di sfogare un po' di più le sue doti creative, almeno nella distribuzione, almeno nelle scelte distributive. Ti chiedo ancora scusa per prima, ma è più forte di me. Non lo sopporto. Una bambina non può giocare con lucertole e ragni morti. Soprattutto non dentro casa. Sei d'accordo? Lo so a chi pensi in questo momento. Da quando lui non c'è più, sembra che niente vada più bene tra noi. Per una bambina non c'è cosa più triste che perdere il suo papà. Boris, abbiamo sentito una clip di Un gatto a Parigi. Questo è un film assolutamente da vedere, a mio modo di vedere. Scusate il gioco di parole. È un film addirittura prodotto in Francia nel 2010. Ci ha messo un paio d'anni ad arrivare al successo attraverso il circuito dei festival. Poi un paio d'anni ancora ad arrivare sugli schermi italiani. E ci arriva in questo Natale ed è una proposta molto interessante. È un film sotto il profilo artistico assolutamente bidimensionale, ma con la grazia del tratto che ricorda quasi l'epoca Disney degli Aristogatti, della Carica dei 101, ma è una bellissima storia anche natalizia, di un ladro gentiluomo e dell'amore con un gatto. E devo dire che è un film che mi ha molto colpito. Sì, devo dire, forse queste sono le sorprese più belle, cioè nel momento in cui noi siamo abituati a una tecnologia che pervade tutto, compresa l'animazione, e ci offre disegni che sembrano fotografie, tridimensionalità che ti fanno sembrare di essere dentro lo schermo e non in sala, arriva Un gatto a Parigi con tutto il ritardo del caso, purtroppo, e ti restituisce il cinema tout court, il cinema vero, con un tratto audace nella sua voglia di essere lontano da qualsiasi realismo o comunque anche rotondità, dolcezza, cioè si prende responsabilità di una volontà di cercare un preciso stile, una precisa estetica, che può anche disturbare, ma a mio parere, come dici tu, prende il meglio degli Aristocratici, della Carica dei 101, cioè di tutta una sorta di racconto dove gli animali hanno comportamenti antropomorfi, pensano e hanno sentimenti, e allo stesso tempo però ha anche una sensibilità profonda nel raccontare rapporti umani tra gli animali, ma anche al di fuori di loro, cioè quello di cui sono spettatori. È un po' come possiamo immaginarci noi questi animali che ci stanno spesso vicino nella vita di tutti i giorni, come potrebbero vederci, come potrebbero capirci e come potrebbero interagire con noi. Qui c'è addirittura un'assenza di comunicazione che viene esplicitata proprio attraverso il protagonista animale. Davvero un bel film, incredibile che sia arrivato così tardi, e il tratto è davvero interessante, cioè c'è da sperare che apra una moda, perché a livello di disegno è qualcosa di nuovo, proprio perché va indietro nel tempo a cercarlo. Molto molto pittorico, tra l'altro voglio sottolineare un particolare che ci fa da ponte al prossimo blocco, la storia di una ragazzina, Zoe, la cui mamma è un agente di polizia che ha perso il padre ucciso durante una sparatoria. La rosa purpurea. Eccoci qua, allora, La Rosa Purpurea prosegue con questa puntata speciale per le feste natalizie, tutta dedicata a tutti i film che sono in sala. Abbiamo parlato dell'animazione, abbiamo già lanciato un ponte verso questa seconda tranche importante, sempre più importante a Natale, quella dei film di qualità, dei film d'autore, dei film che hanno un tema sociale importante sullo sfondo, dei film che sperimentano qualcosa. Una volta Natale era terra bruciata per questi film, che invece sono sempre più numerosi, perché grazie al cielo ci si è accorti che a Natale al cinema ci vanno di più tutti, anche quelli che amano il cinema di qualità e le storie più particolari. E allora abbiamo detto somiglianze fra insomma uno degli aspetti della vicenda della trama di Un gatto a Parigi e quelli de Il ragazzo invisibile di Gabriele Salvatores, che è partito in sala non fortissimo, ma è un film che ha bisogno di tantame, un film che ha bisogno di tempo, perché è un film piuttosto singolare per il cinema italiano, sicuramente anche abbastanza coraggioso. La storia di un ragazzino, appunto, che deve vedersela a scuola con i bulli, a casa con l'assenza di un padre, con una madre poliziotta che fa quello che può per tenere insieme la baracca, e che a un certo punto anche per le vessazioni che lo circondano scopre di essere invisibile. Ascoltiamo una clip. Buongiorno ragazzi. Vi rubo solo un minuto. Qualcuno di voi ha visto per caso Martino Breccia? È successo qualcosa a Breccia? È morto di seghe. Martino manca da casa da 2 giorni. La sua mamma è andata a svegliarlo e in camera sua non c'era. Il suo letto era intatto. Se lo vedete, se lo sentite, ditegli di tornare a casa. Valeria Golino nel cast del film di Gabriele Salvatores. Boris, si è molto divisa la critica su Il ragazzo invisibile. È certo un film non perfetto, forse, dove il meccanismo in certi momenti fatica un po' a procedere, però è anche un film, come dicevo prima, molto coraggioso e anche con molti aspetti innovativi per il cinema italiano. Ma io ho l'impressione che a volte bisogna fare anche autocritica, al di là delle inevitabili imperfezioni o delle citazioni troppo esposte o di qualche, insomma, difficoltà. Voglio dire, quando rischi molto, chiaramente non tutto va alla perfezione. Mi sembra che c'è una scarsissima abitudine da parte nostra, da parte di chi guarda i film per lavoro e ha questa fortuna, di andare oltre determinati schemi. E Gabriele Salvatores è uno che lo fa spesso. Gabriele Salvatores è uno che dopo l'Oscar ha deciso di esplorare sostanzialmente tutti i generi, in particolare quelli che normalmente in Italia non vengono esplorati. E qui c'è una fantascienza, tra l'altro una fantascienza molto giovanile, addirittura quasi preadolescenziale, del tipo di Spy Kids, per intenderci, che probabilmente facciamo fatica anche a decifrare a livello critico. A me sembra un film molto felice, devo essere sincero, un film in cui chiaramente portare i figli, in cui chiaramente magari l'adulto può entusiasmarsi di meno o deve avere comunque un animo bambino, ma in cui con i mezzi del cinema italiano, con una sensibilità italiana, Gabriele Salvatores riesce a citare grandi classici dagli X-Men a Watchmen e allo stesso tempo a dare una cifra decisamente tricolore a questa fantascienza. In questo senso devo dire che anche la scrittura di Ludovica Rampoldi e i suoi, che per fortuna sono un gruppo di sceneggiatori che sta prendendo un po' piede sia in televisione che in cinema, si sente che c'è qualcuno che parla a una società attuale, a chi ha la capacità di vedere il mondo come adesso. C'è anche, e questo di solito manca in altri tipi di film del genere, italiani e non, quel tipo di ironia, quel tipo di gioco, quel tipo di modo di non prendersi sul serio che assolutamente non guasta. Quindi, al di là delle imperfezioni, forse di qualche scelta di cast proprio non proprio perfetta e di qualche scena non andata al posto giusto, io Il ragazzo invisibile lo promuovo. Mi auguro che ci sia un sequel. Assolutamente, tra l'altro promosso, anche perché tu hai detto gli adulti non si entusiasmeranno come i ragazzi. Al di là dell'entusiasmo, sicuramente è un film che parla molto anche agli adulti con figli, cioè parla molto ai genitori dei figli. Questo film ha un livello di lettura molto importante su quel target. E poi, insomma, la metafora è scoperta, se vogliamo, no? Il ragazzo diventa visibile a tutti nel momento in cui diventa invisibile. visibile, e quello della visibilità e della non visibilità e di quanto stare esposti è uno dei temi centrali della nostra società e della comunicazione di oggi. Basta guardare quello che succede sui social tutti i giorni, anche dopo che dopo che la tua vita è finita, è truce dirlo sotto le feste natalizie, ma ti capita di vedere ancora cose, tue foto, tue cose che girano, il tuo nome che gira anche quando la persona in oggetto non c'è più, perché rimaniamo. Questa è la società della permanenza elettronica e dell'impalpabilità fisica, se vogliamo. Quindi di questi temi Il ragazzo invisibile parla, pur senza dimenticare che è un film che è rivolto innanzitutto ai ragazzi, hai detto bene tu, spesso anche preadolescenti, e in questo le scelte di cast sono state felicissime sui ragazzini, perché Ludovico Girardello, Michele e Noah Zatta sono davvero straordinari. Allora sentiamo dalla voce di Gabriele Salvatores come li ha scelti. Devo dire, quando lavori con i ragazzi, cioè con attori che stanno cominciando o che non sanno ancora di voler fare l'attore o meno, lì devi essere molto attento. Ne abbiamo visti tanti davvero, tra l'altro in tutto il nord Italia abbiamo bisogno di accenti più del nord, ma insomma 1500 prima di arrivare a scegliere. Qui devi cercare di individuare, quando vedi ragazzi, non tanto la bravura tecnica, che insomma non può esserci, a volte non è neanche richiesta, ma le caratteristiche psicologiche del personaggio, cioè ritrovare nell'attore, nel ragazzo che stai vedendo, qualcosa che è già del personaggio, e poi durante il lavoro sul set provare a farglielo venire fuori questa cosa. E allora Gabriele Salvatores parlava così del ragazzo invisibile. Facciamo un salto oltre manica, perché ci sono un paio di film che arrivano da lì. Uno è il Jimmy Soul di Ken Loach, e Ken Loach ancora una volta riesce a coniugare in una delle maniere più felici, a mio modo di vedere, la sua coerenza politica di militante, raccontando un'Irlanda anni 20-30 vessata dall'ingerenza dei potenti, dei latifondisti, ma anche della Chiesa Cattolica nell'educazione dei ragazzi, attraverso questo luogo simbolo che è questa sala da ballo, e non solo, gestita appunto da Jimmy Grelton. Una storia realmente accaduta e intensamente recitata, un film bellissimo, sia per chi ama anche un Natale d'amore e sentimentale, ma anche per chi appunto non vuole dimenticare l'impegno. Ma d'oltre manica, è arrivato anche, e già da qualche settimana, Pride, un altro film di cui si è parlato molto, e un altro film che racconta l'Inghilterra più recente, quella della Thatcher, quella degli scioperi dei minatori, e di come due comunità apparentemente distanti, agli antipodi, da una parte appunto i minatori, dall'altra la comunità gay, si fossero venute incontro per cercare di cambiare le cose. I minatori sono entrati nel quarto mese di sciopero, ma il governo ribadisce che chiuderà, come annunciato, 20 pozzi, con la perdita di oltre 20.000 posti di lavoro. Senza quella miniera il paese è finito. Queste comunità di minatori sono prese di mira, esattamente come noi. È la cosa giusta da fare. Mike, sono arrivati i tuoi gay! Allora, signori, ci è raggiunto un altro dei nostri gruppi di sostegno. Lesbiche e gay sostengono i minatori. Boris, abbiamo sentito una clip di Pride. Se dovessi scegliere fra Pride e Jimmy Soul, cosa andresti a vedere? Mi fai una domanda piuttosto difficile, perché sono due film cugini, diciamo, ecco, due film che hanno la caratteristica entrambi di scaldarti il cuore. Che Loach lo fa con un sentimento di solidarietà, di malinconica voglia di lottare contro qualcosa di più potente di te. È un Loach forse minore, ma è un Loach di quest'ultimo Loach, che è molto più empatico, è molto più dolce, molto più tenero, e meno ideologico. In qualche modo la caduta del muro sicuramente gli ha fatto bene anche all'interno del cinema. Certo, Pride è un film molto più gioioso, molto più divertente, nonostante forse un finale più pesante, però ha questa caratteristica di un certo cinema lavorista che era iniziato negli anni Ottanta, in cui c'erano queste grandissime imprese di piccole comunità, tra l'altro vere, perché queste entrambe, tra l'altro, un'altra cosa che Luch e Pride condividono il fatto di essere storie vere. Ci si diverte molto con Pride, ci si commuove tanto, si vedono degli attori clamorosi come Bill Nighy e Imelda Staunton, e alla fine forse da critico dovremmo dire che è un film un po' furbo, ma è abbastanza furbo da conquistarci e da farci alzare le mani di fronte alla legge del cuore, quindi non puoi non resistere a Pride, e diciamo che a suo modo è uno dei film più natalizi di tutto il cartellone. E allora decidete voi a questo punto, noi vi abbiamo dato tutti gli indizi. Prima traccia del game, non ci dimentichiamo di giocare a Natale, mancherebbe altro, prima traccia del nostro film misterioso di oggi. Non c'è cosa in questo mondo che non abbia una qualche attrattiva. Già. Sono stufo di queste chiacchiere. Ma possiamo vivere senza distruggere vite umane, è possibile. Tutto è possibile. E allora, se avete già indovinato di che film si tratta, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, la rosa purpurea, @radio24.it. Più tardi, fra poco, ci sarà un'altra traccia per provare a indovinare e a provare a vincere una delle due copie di questo film in palio per voi. La rosa purpurea. Eccoci qua, la rosa purpurea prosegue, ancora tanto Natale di qualità, ma anche per il grande pubblico ovviamente, perché quando c'è Woody Allen di mezzo chiaramente non ci si può limitare a un ambito o a quell'altro. Tra l'altro il film sta andando molto bene in sala, a mio modo di vedere anche oltre i suoi meriti effettivi, alla fine della scorsa settimana era già oltre i 3 milioni di euro di incasso, ma insomma c'è ancora tutto Natale e Capodanno da fare, quindi un film che conferma anche la vena, certo non ai livelli di Midnight in Paris, ma la vena comunque di un ritrovato feeling col pubblico anche europeo di Woody Allen, che qualche volta si era sfilacciato anche da questa parte dell'oceano, sappiamo che di là è molto sfilacciato da tempo. Allora, Magic in Moonlight, ascoltiamo questa clip. Beh, sta a sentire, sono imbarazzato a dire che ho osservato questa donna all'opera da ogni angolo tante volte e non sono riuscito a trovare niente che nuova. Insomma, ho osservato ogni mossa e Dio sa se conosco ogni trucco di lettura del pensiero o sedute spiritiche, ma non ho trovato un difetto, ho scoperto una sola mossa sospetta e ho cominciato a dubitare del mio raziocinio. Ho pensato che magari lei è genuina. La storia di un illusionista, Colin Firth, chiamato a scoprire, scovare una finta medium, una truffatrice presunta, bella però, molto bella, come Emma Stone, il tutto sullo sfondo della Costa Azzurra, quegli anni 20 straordinariamente amati da Woody Allen a partire dal tappeto musicale che campeggia nel film, un film, Boris, dicevo, chiaramente Woody Allen è sempre da vedere, questa è la premessa, ma che a mio modo di vedere è un po' invece una mezza battuta d'arresto in termini proprio di prospettiva narrativa ed espressiva, perché c'è una verbosità in certi momenti addirittura insopportabile. Ma ci sono tutti i difetti del Woody Allen ultimo, e purtroppo quando dico ultimo direi degli ultimi 20 anni. Per fortuna c'è anche qualche pregio che invece negli ultimissimi anni si era perso, se non nella tappa parigina, che insomma era stato forse l'unico momento abbastanza felice. Certo è che Magic in the Moonlight, proprio perché forse raggiunge la sufficienza, è secondo me il segnale che questo grande maestro che ha cambiato la storia del cinema ora ha veramente poco da dire. Prende due attori bravissimi e tra l'altro un'ottima chimica, Colin Firth ed Emma Stone, prende un soggetto facile, secondo me molto autobiografico, nel senso che tutto questo discorso sull'illusionismo da scoprire fa pensare che Woody Allen voglia essere scoperto nei trucchi che reitera da anni, in quelli che prima erano colpi di genio e adesso sono giochi di mestiere. Riesce a portare a casa il film, un film persino gradevole, un film che probabilmente avrà anche il suo pubblico, ma come ti capita spesso negli ultimi anni con lui, ti chiedi che cosa ti ha dato quel film, se non qualche momento di qualche gioco di stile, qualche momento divertente, qualche scena elegante, e poi però, come dici tu, anche tanta noia, tanta verbosità, è poco costrutto. Pensare che lui ha fatto almeno 6-7 capolavori del cinema mondiale e che adesso faccia delle commedie allo champagne, diciamo, che potrebbero fare in molti, un po' fa tristezza. Però se siete appassionati di Woody Allen, sappiate insomma che forse degli ultimi 10 è il secondo o il terzo. Beh, quindi... sì, diciamo, io lo metterei anche come quarto, perché a me non era dispiaciuto affatto nemmeno Blue Jasmine e Whatever Works, che ritengo comunque superiori a questo. Però comunque sicuramente Woody Allen a Natale è una bella sfida, insomma, come fare a non andare a vederlo. In ogni caso, rimaniamo in America, Boris, perché c'è un film che invece è uscito da poco, che ha un mattatore stavolta davanti alla macchina da presa, non dietro. Stiamo parlando di Bill Murray, protagonista assoluto di St. Vincent. Ehi! Ciao mamma! Che stai facendo? Toso il prato di Bill. Ma... Ehi, Bill! Stavo dormendo, grazie tante. Perché sta tosando il tuo terriccio? Ah sì, lui mi paga ora. Gli sto mostrando come funziona il mondo. Lavori, vieni pagato, bevi. Stai bevendo alcolici? Francamente non ricordo. Boris, St. Vincent di Theodore Melfi, un film che rinnova il genere l'uomo della porta accanto, no? Vicini di casa per caso, in un certo senso. Qui abbiamo un Bill Murray nei panni di questo Vincent, che definire misantropo è quasi fargli un complimento, ma di cui scopriremo anche tutti i valori interiori. Beh sì, come hai detto tu, il vicino della porta accanto è un grande classico ormai, anzi è uno stratagemma narrativo che viene utilizzato dai più grandi per fare ottimi film, ma anche nei film di genere. Qui devo dire che proprio perché si prende uno stereotipo narrativo che ormai è abusato, soprattutto negli ultimi anni, c'è la forza, proprio attraverso un Bill Murray in forma sbagliante, anche se diciamo che vedendolo fisicamente in questo film non è l'espressione che ci viene subito in mente, però recitativamente parlando è davvero in forma smagliante, si prende e si cerca quasi la parodia, ma non la parodia demenziale o la parodia estrema comicamente, è proprio la parodia sociale e la parodia creativa di questa figura ormai diventata archetipica. Cioè prendo il vicino di casa, quello che è arrabbiato, il Jack Nicholson di turno, il Michael Douglas di turno, e poi lo addolcisco. Qua succede esattamente il contrario: arriva il vicino di casa, è arrabbiato, è sociopatico, non è capace di avere dei rapporti con le altre persone, e che cosa succede? Fa sostanzialmente diventare così anche tutti gli altri. Insegna appunto a chi ci sta attorno come va il mondo. Certo si addolcirà, certo capirà che nella sua vita sta entrando qualcosa di bello attraverso un bambino, però è vero che la grandezza di Murray è farci diventare simpatico un vicino che noi non vorremmo mai avere accanto e non vorremmo nemmeno incontrare nelle riunioni di condominio. E soprattutto in questo modo dà una nuova vitalità a questo filone. Quindi io St. Vincent, devo dire, ve lo consiglio fortemente, anche perché poi Murray, al di là dei momenti più divertenti che avete sentito nel trailer, sa mettere dentro questo personaggio anche aspetti più delicati e più profondi che rendono il film un gioiello ancora più prezioso. Allora, ultimo film della sezione tutta ipotetica, insomma, dei film del Natale di qualità, non che gli altri non abbiano qualità, ma insomma dove si cerca qualcosa di più, e qui senza dubbio si cerca qualcosa di più e molti spettatori stanno cercando qualcosa di più in un film come Mommy. Ti giuro, non ce la facevo più con tutti quei dementi lì al centro. Oh, dammene una. Io fumo, lo sai. Bravo, è ora di smettere. Smetto anch'io al mio compleanno. Vaffanculo. Non ci siamo, Steve, stammi bene a sentire. Ora stabiliamo le regole della casa. Se vuoi restare con tua madre e non avere guai, mi devi dare una mano. Un fan prodigio del cinema europeo e non solo, Xavier Dolan, è diventato ormai l'uomo, il ragazzo, visto che ha poco più di 25 anni, da avere a tutti i costi nei festival che contano. Questo è il suo quinto film, tra l'altro, da regista, ancora una volta un film azzeccato in pieno, con una potenza espressiva, recitativa, di messaggio importante, e che fa di Xavier Dolan sicuramente uno dei giovani registi da seguire maggiormente nella sua parabola narrativa. Qui la storia di un rapporto fra una madre single, ancora bella, molto aggressiva, ma totalmente incapace di gestirsi, e del suo rapporto appunto con un figlio che più o meno come lei, ma forse anche un po' peggio. E quindi, come dire, due esseri umani estremi che però hanno un rapporto quasi carnale, non incestuoso, ma quasi carnale, ma anche un rapporto di profondo amore, di profondo rispetto. È una storia estrema, come piace fare a Xavier Dolan. È un miracolo, a mio modo di vedere, già che un film uscito il 4 dicembre a Natale sia ancora in quasi una ventina di sale in tutta Italia. Non perdete l'occasione per andarlo a vedere, Boris. Sì, sono d'accordissimo. Magari non sono un fan sperticato di Xavier Dolan, anche se ammiro questa felicità narrativa e creativa che ha solo 25 anni. Volendo fare una battuta, bisognerebbe dire a Balotelli, che è un suo quasi coetaneo, come di imparare da lui come non si spreca il talento. Forse è ancora un po' troppo furbo o un po' troppo ingenuo, chissà, per riuscire a fare il suo capolavoro. Hai l'impressione che sia sempre lì per darti qualcosa di indimenticabile, per diventare una sorta di Bertolucci del nuovo millennio, e poi sembra non riuscirci. Forse anche per qualcosa di positivo, Xavier Dolan ha un'anima molto pop, è cresciuto con un cinema americano molto particolare, anche d'azione. Almeno a parole rifiuta riferimenti che però sembrano evidenti al suo cinema, come Truffaut e via dicendo. Mommy è probabilmente il suo miglior film. È probabilmente il film in cui comincia a mettersi alla prova con sentimenti molto vicini a lui, e pur con qualche sbavatura, con qualche eccesso, ti porta all'interno, come dicevi tu, di un rapporto molto particolare e allo stesso tempo però normalissimo. Cioè ha questa capacità di rendere quotidiano qualcosa che sullo schermo chiaramente non è tale. Lo fa con uno stile molto particolare, con uno stile molto forte, anche con una tecnica, e non bisogna dimenticarlo avendo 25 anni, di grande livello, e un occhio per la fotografia davvero straordinario. Io ho l'impressione che appunto presto avremo un nuovo Bertolucci, presto ci regalerà grandi capolavori. Per ora è davvero un grande enfant prodige, merita tutto il fatto che uscito il 4 dicembre sia ancora in sala, e anzi mi auguro che arrivi fino a gennaio col vento in poppa, vista anche la delusione di non essere stato inserito nei nove pretendenti all'Oscar. Assolutamente, hai fatto bene a sottolinearlo, Boris, perché questa è una roba che dice anche molto di cosa sono gli Oscar, fatemelo dire. Comunque, questo è il Natale di qualità. Noi adesso giochiamo insieme, prima di passare a qualche film con qualche scintilla in più, con qualche momento d'azione in più, seconda traccia del nostro film misterioso. E poi con una dieta di sangue di serpenti, rospi e tutto ciò che di putrido c'è nel Mississippi. E allora, La Rosa Purpurea, @radio24.it, se siete amanti di cinema d'autore, e vi aiuto, visto che è Natale, anche di vampiri, diteci di che film si tratta, scriveteci il vostro indirizzo come sempre, provate a vincere una delle due copie di questo film che svereremo nella prossima puntata. Mio signore, invia questa forza a Colle Corvo! I nani stanno per essere sopraffatti. Thorin deve essere avvertito. Avvertilo tu se vuoi. Ho speso sufficiente sangue elfico in difesa di questa maledetta terra. Ora non più. Tranduil. Vado io. Ma non essere ridicolo. Non ce la farai mai. Perché no? Perché ti vedranno arrivare e ti uccideranno. Non lo faranno. Non mi vedranno. È fuori questione. Non lo permetterò. Non ti sto chiedendo il permesso, Gandalf. È il vero blockbuster di questo Natale 2014, stiamo parlando dello Hobbit, la battaglia delle cinque armate, il film che chiude la lunghissima e fortunatissima saga di Peter Jackson. Sta andando fortissimo in sala, nel primo weekend ha portato a casa quasi 5 milioni di euro, sarà sicuramente, a mio modo di vedere, il trionfatore del botteghino natalizio quando faremo i conti dopo l'Epifania. Boris, brevemente su questo Hobbit. Un film che chiaramente ha già un suo pubblico, un motivo per andarlo a vedere per gli altri? Beh, Il motivo è semplice, ti porta senza tanti fronzoli, a differenza del film precedente, dentro un mondo straordinario. Lo fa con una chiara idea visiva e con una narrazione ridotta all'osso. Di solito eravamo abituati in questa saga, tra Il Signore degli Anelli fino all'Hobbit, a una complessità di racconto molto forte. Qui si combatte, qui si fa botte, qui ci sta questa coralità piuttosto violenta e una fotografia unica, soprattutto perché insomma a questo tipo di fantasy così ambizioso forse non siamo abituati. E quindi non faccio fatica a pensare che sarà il grande vincitore di questo Natale, perché da una parte forse ci si è stufati di ridere di commedie che non hanno più spessore di tanto, e dall'altra questo Hobbit è un modo felice per entrare all'interno di una saga, anche perché ricordiamolo, per chi non dovesse aver visto Il Signore degli Anelli, la cosa migliore è proprio vedere prima gli Hobbit, perché si seguirebbe lo stesso percorso narrativo che ha fatto Tolkien nello scrivere, anche se altri hanno scritto diversamente. Vi assicuro che è così, e questo non è assolutamente male, è un privilegio che noi non abbiamo perché l'abbiamo già visto, ma che vi consigliamo se dovesse essere ancora lontani dall'aver visto la trilogia di Peter Jackson. La Rosa Purpurea. Eccoci qua, La Rosa Purpurea prosegue. Abbiamo detto commedie italiane, cinepanettoni. Fatemi dire anche che al cinema c'è anche L'amore bugiardo, Gone Girl, di David Fincher. È uscito da poco, ne abbiamo parlato diffusamente proprio nello scorso weekend, con Ben Affleck protagonista. È uno dei film più attesi di questo fine di stagione. Qui siamo nell'action pura, nel senso che è la storia di un uomo a cui viene, che insomma scompare, di cui scompare la moglie proprio nel momento in cui compiono 5 anni di matrimonio, e che si trova al centro, tra l'altro, dei sospetti per questa sparizione. È un film molto molto intenso, con una grande regia da parte di David Fincher, quindi, come dire, chi ama anche queste atmosfere thrilling anche sotto Natale può godere di questo film. Ma dicevamo, parliamo di cinepanettoni e commedie natalizie. Si è molto modificato il genere, lo dimostra il fatto che appunto, come diceva prima, accennava Boris De Laurentiis, da qualche anno ha un po' messo da parte le vacanze di un certo tipo, in luoghi sempre a meni ma diversi, e ha sdoganato un altro tipo di commedia natalizia, sempre molto leggera, per carità, però magari con anche aspetti diversi. E forse questa volta, con Un Natale Stupefacente, con Lillo e Greg, Boris, le cose sono andate anche un po' meglio del previsto. Allora sentiamo questa clip e ne parliamo. Chi sono quei due? Sono i miei zii. Che è successo? Dicono che siamo degli spacciatori. Pensate a Matteo, fategli passare un Natale sereno. È una cosa grave. Ma lei chi è? Sono il fratello del fratello, lui il fratello della sorella. E con Marisa? Con Marisa la grande. Pensa, è come se fosse il primo giorno. Davvero? No, m'ha lasciato, sto una merda e dormo in macchina. E allora, Lillo e Greg sono la novità, se vogliamo, di un cast che poi annovera Paola Minaccioni, Ambra Angiolini, insomma volti che sono abbastanza abitué nel cinema italiano e anche nella commedia italiana più recente. Un equivoco alla base di tutto: i genitori di Matteo vengono arrestati con appunto l'accusa di essere spacciatori di droga, e il ragazzino viene sostanzialmente affidato ai due zii, che però sono due fenomeni, anche loro abbastanza da circo, appunto Lillo e Greg. Boris, incredibilmente, mi viene da dire, hai promosso il cinepanettone. Assolutamente sì. Si vede che sta invecchiando. Sto invecchiando oppure sta ringiovanendo finalmente il cinepanettone. Credo che sia questa la situazione, perché nell'anno in cui Neri Parenti doveva liberarsi e andare fuori dalla morsa diabolica di Aurelio De Laurentiis, nell'anno in cui gli autori di Boris facevano un film natalizio, e quindi nell'anno in cui ci si aspettava la rivoluzione fuori dalla Filmauro, incredibilmente l'innovazione invece arriva da chi da 31 anni fa il cinepanettone. Quindi devo promuoverlo a pieni voti e notare come la rottamazione del cinepanettone arriva dai genitori del cinepanettone, ed è incredibile. E allora, questa è la promozione natalizia di Boris per Un Natale Stupefacente, che avrà sicuramente come avversario più tosto al botteghino il film di Aldo, Giovanni e Giacomo, Il Ricco, Il Povero, Il Maggiordomo. Penso che sarà fra questi due film che si giocherà un po' la volata per la commedia italiana più vista in queste festività. Sentiamo la clip. Dottore, ma se proprio non sapete dove andare, posso ospitarvi io. La ringrazio molto, signora. Aldo. Riuscirò a trovare un alloggio adeguato. Figuriamoci se questa cosa rappresenta un problema per una persona come me. Sì, ma... Le nostre strade si dividono qui. Scusa! Posso chiedervi quando mi darete i miei soldi? Certo. Tutto in punta di penna questo dialogo, avete sentito, anche abbastanza, fa abbastanza ridere già da sé, perché sentire chiaramente questi personaggi che abbiamo ben in testa nel nostro immaginario recitare così, appunto, tutto in calligrafico, in bella scrittura, fa abbastanza sorridere. È la storia di un broker senza scrupoli che si becca in faccia la crisi, finisce un po' sotto il tram in maniera figurativa e deve avere a che fare, suo malgrado, ma anche per sua fortuna, con un venditore ambulante che in qualche modo cercherà di aiutarlo per farsi aiutare. È un film tutto sommato anche molto sul concetto di solidarietà, sempre declinato ovviamente con la comicità di Aldo, Giovanni e Giacomo, che ho trovato in questo film un po' più felice rispetto a ultime uscite, non tanto La banda di Babbo Natale, ma quelle precedenti. Allora sentiamo su questo concetto proprio Giovanni Storti e poi ne parliamo con Boris Sollazzo. Sì, diciamo che Giacomo in persona, questo ricco broker, ma in realtà è simbolo dell'avidità e dell'irresponsabilità. Infatti quando crolla si trascina da irresponsabile tutti quelli che attorno, compreso il maggiordomo, che è un po' quello che a cui fa perdere i sogni. E da questo disastro praticamente arriva la consapevolezza e quindi la solidarietà e la collaborazione portano poi a realizzare un piccolo sogno, diciamo, avere un po' più di visione della realtà vera, ecco. Boris, il ricco, il povero e il maggiordomo, Aldo, Giovanni e Giacomo, che al botteghino sembrano aver ritrovato il feeling importante con il loro pubblico, che, come ripeto, non tanto sull'ultimo film, ma in quelli precedenti aveva avuto un po' un declino. Sì, assolutamente sì, sembrano aver ritrovato quella verve che ce li ha fatti amare a teatro, a mai dire gol con i bulgari, gli arbitri e via dicendo. Qui il soggetto è facile, il classico incontro appunto tra il ricco e il povero, una sorta di poltrona per due alla Meneghina. E la sceneggiatura, che è una sceneggiatura abbastanza semplice ma per una volta curata rispetto agli ultimi anni, permette loro di lasciarsi lo spazio per vivere momenti dei loro. E allora Boris, con Aldo, Giovanni e Giacomo, con la commedia italiana La regina del Natale, noi ti salutiamo, buone feste, buon proseguimento di feste, ci risentiamo la prossima settimana quando saranno usciti film molto importanti il 1 gennaio, insomma ci sarà da parlare di molte novità. Per il momento tanti auguri. Alla prossima settimana, buon cinema e buon anno. E allora, siamo arrivati quasi alla fine, però anche in queste giornate festive, come non darvi un viatico per vedere qualcosa in TV o nell'home video, partendo dalla soluzione del game, del film misterioso della scorsa settimana. La poesia non è di chi la scrive, è di chi gli serve. Oh, io apprezzo in modo adeguato questa frase altamente democratica. Così parlò nell'estate del 52 Mario Ruoppolo, figlio di pescatori, che era diventato il postino che portava Pablo Neruda le sue lettere, con lui intratteneva un rapporto d'amicizia. Ovviamente era il grande Massimo Troisi nei panni appunto del protagonista del film di Michael Radford, Il Postino, 1994, era il nostro game della scorsa settimana. Lo hanno indovinato per primi e riceveranno il Blu-ray del Postino, che è anche il il motivo per cui ne stiamo parlando, la nuova uscita in Blu-ray, Andrea Santamaria di Genova e Monica Spinelli di Mestrino, provincia di Padova. E noi, per farci raccontare appunto questa nuova edizione del film con Massimo Troisi in Blu-ray, chiamiamo in causa Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori e buone feste. Sì, partiamo dal postino basato sul romanzo di Antonio Scarmeta, che racconta appunto di un'isola delle Oglie, di un postino e del suo rapporto d'amicizia con niente poco di meno che Pablo Neruda. È uno di quei film dal lirismo semplice e umanissimo che probabilmente non passerà alla storia del cinema, ma che è in grado di donare storie positive d'umanità e ci consegna una prova incredibile di Troisi, che volle fortissimamente questo film che in fondo, come racconta anche il regista Michael Redford, è veramente suo. Il Blu-ray, uscito per il 20° anniversario del film, si presenta con una bella edizione con sovracopertina cartonata che coglie il film restaurato, presentato per la prima volta in alta definizione. Il lavoro di restauro è considerevole, riporta allo spettatore l'immagine della pellicola originale fatta di una fotografia morbida e un po' granulosa, in grado di cogliere gli splendidi colori e i colori delle Oglie. L'audio offre solo la traccia italiana stereo e gli extra purtroppo sono pochi, ma ci si può facilmente accontentare, insomma. Parliamo anche di segnalazioni per quanto riguarda la televisione, Giulio, perché come dicevamo sono giorni molto intensi per quanto riguarda la programmazione di Film in TV. E allora, per finire bene l'anno e per cominciare bene quello nuovo, cominciamo con la segnalazione del 31 dicembre, un film che non può mancare dai palinsesti durante il periodo natalizio, proprio per legge, si chiama La vita è meravigliosa. Esattamente, La vita è meravigliosa, film di Natale per antonomasia, almeno fino a quando John Landis non si è inventato una poltrona per due, e oggi quindi può essere benissimo utilizzato come film dell'ultimo dell'anno. La storia di un uomo che ha sempre pensato agli altri, non a sé, ma ora vuole togliersi la vita, fino a quando Dio invita un angelo vestito da vecchietto a fargli cambiare idea, mostrandogli cosa sarebbe stato il mondo se non fosse mai nato. Un capolavoro di realismo fiabesco che è in grado di modulare sentimenti come poche volte è accaduto nel cinema, riuscendo ad essere insieme una favola e un documentario su uno squarcio d'America, un inno alla vita e all'entusiasmo. Frank Capra, il regista, disse di questo suo film: era il film per la mia gente, il film che avevo voluto fare da quando avevo posato per la prima volta l'occhio contro il mirino della macchina da presa. E allora ricordiamo, La vita è meravigliosa, TV 2000 alle 20:30 mercoledì 31 dicembre, e la mattina dopo, anzi la sera dopo, giovedì 1 gennaio, per chiudere in bellezza la parentesi del Capodanno, ma per cominciare molto molto bene l'anno con Quentin Tarantino, Django Unchained su Cielo alle 21:10. Nei difinti Uda anni a questa parte cominciamo l'anno regalando ai lettori con il numero uno una locandina di un film di Quentin Tarantino. Quest'anno tocca proprio Django Unchained, che potete recuperare appunto in TV. Un western in cui il regista di Pulp Fiction reinventa la mitologia del Django di Franco Nero, che è stato un classico dello spaghetti western, ma qui ambientato all'epoca dello schiavismo in America, nel Texas del 1858. E come in ogni film di Tarantino, mentre si diverte con il pastiche dei generi e rimando ad altri film e ad altre culture in un cinema globale ma personalissimo che funziona sempre perfettamente a ogni livello, finisce anche per far riflettere sulle cose del mondo, sull'ideologia che sta alla base della xenofobia e, cosa che invece è tutt'altro che banale, su quella che sta alla base della sottomissione. Non è un caso, ad esempio, che Django sul finale si scontri non con uno schiavista ma con uno schiavo, provate a pensarci. Appuntamento con Django Unchained quindi su Cielo alle 21:10 il 1 gennaio. Grazie Giulio San Giorgio, un augurio a te e agli amici di Film TV. Ciao Franco, alla prossima e buone feste a tutti. E siamo arrivati così alla fine della nostra trasmissione. Ancora un cauro augurio a tutti quelli che ci hanno seguito per queste festività. Noi ci risentiamo già nell'anno nuovo, perché sarà il 3 gennaio quando avremo la puntata con i nuovi film usciti appunto il giorno di Capodanno. Grazie a Silvio Boccaletti in redazione, a Peter Bescapè in regia. Un cauro augurio di buon anno da Franco D'Assisti.